Ciao Alice, ciao Marika, ciao Radio Risacca, ciao ragazze, ciao ragazzi, buonasera. benvenuti, buonasera al nostro quinto appuntamento di Cemento e Curcuma. Olè. Olè! Grandi! E oggi vi parleremo di un albero molto maestoso e dalle mille proprietà. Oggi con noi abbiamo il Il tiglio. tiglio. Sì, della famiglia delle Tiliacee. E descriviamo un pochino questo fantastico albero. È molto grande, come abbiamo Sì. già detto, raggiunge fino ai 30 metri di altezza, ha delle Wow. foglie molto grandi con i margini seghettati, a Ok, forma quindi di cuore, di sorry, cuore, di allora vedi. cuoricione. Molto facile da riconoscere. E ha dei fiori molto piccoli e profumati di Ok. colore giallo paglierino. E questo albero soprattutto, questa è una cosa che ricordiamo, può vivere fino a 200 anni. Wow, Wow. cioè un albero super potente. E una delle parti sicuramente più usate sono i suoi stupendi fiorellini, anche molto amati dalle nostre amiche apette, da qui il famosissimo. Viale di Tiglio. Esatto. E quando lo raccogliamo questi fiori? Adesso, diciamo Olè. tra giugno e luglio. Ok, e comprese anche Bratte. le blatte? Ah, Bratte. bratte! Bratte! E che cosa sono le bratte, Alice? Sono per noi comuni mortali foglie. Ok, e per i comuni non mortali? Allora, le bratte sono due piccole foglioline, molto molto molto più piccole rispetto alle foglie della pianta del tiglio, e si trovano attaccate sotto, attaccate al fiore, e vanno raccolte insieme al fiore. Sono dello stesso colore del fiore, giallo paglierino, e contengono un sacco di principi attivi. Quindi quando si raccolgono i fiori, vanno raccolte anche queste famose bratte. Bratte, ok, quindi ricordatevi di raccogliere anche le bratte se vi capita di incontrare uno stupendo albero di Ma tiglio. poi si vedono perché cadono per terra insieme ai fiori, e poi perché le apette si mettono là a raccogliere tutto quello che gli serve, Tutto insomma. il nettare buono buono. Ma quali sono le proprietà medicamentose racchiuse nei fiori e nelle bratte, Maria? Ok. Ha molteplici, Maria? Alice, ha molteplici proprietà medicamentose, quali un ottimo sudorifero, quindi è molto utile nell'abbassamento delle febbri, è contro il raffreddore, le forme reumatiche, è un vasodilatatore, è ipotensivi, sedativi e perfetti per conciliare il sonno ed è anche contro le bronchiti. Sì, gli dà un Quindi, po' tutto l'apparato respiratorio, esatto. qualsiasi forma di tosse, eccetera, eccetera, Ok. raffreddamenti. Invece, Alice, come viene usato in fitoterapia questo fiore e queste bratte? Allora, io stando a 2000 amo l'albero di tiglio Ok. perché è usato principalmente per combattere l'insonnia, la tachicardia, il nervosismo e tutti i tipi di mal di testa, quindi cefalee, ipotensive, eccetera, eccetera. Molto collegati a stato d'ansia e di stress, e Perfetto. con un'azione rilassante mirata sul sistema circolatorio, Soprattutto. perché provoca, come abbiamo detto prima, è ipotensivo, quindi provoca un abbassamento della pressione sanguigna. Però un abbassamento Leggero, leggero sì. della pressione sanguigna. E perché abbiamo scelto questo fiore oggi? Perché ha oltre queste fantastiche proprietà, è pure molto, molto importante per noi donne, soprattutto in una particolare fase della nostra vita. Quale, Alice? È ben tollerato in gravidanza e nella fase di allattamento, a okay. differenza di molte piante con azione mirata sul sistema nervoso che non possono essere assunte durante questi periodi, la pianta di tiglio è perfetta. E è perfetta soprattutto per i bambini, mm-hmm. per i nostri bambini, anche durante le prime fasi della vita, quindi per i neonati. Ok. E per quali bambini? Per quali bambini soprattutto? Per bambini particolarmente stressati e agitati, visto che questa quarantena l'ha portati tanto sotto stress e magari si sentono ancora molto agitati, e quindi il tiglio è la pianta perfetta sia per le mamme, neomamme, le future mamme, che per i piccoli nati e quelli che stanno crescendo. E per le future pazze. Per le future pazze. E per le attuali pazze. E per le attuali pazze. Sì. E il modo migliore per assumerlo è attraverso la tisana. Okay. Essendo noi fatti di una grande percentuale d'acqua, noi spingiamo molto sulle tisane per questo motivo qui. Sì. Anche perché è una buona abitudine. Sì, fanno anche bene, molto bene. È un modo anche per assumere acqua per le persone che non bevono tanta acqua. Quindi l'infusione in questo caso è proprio il modo migliore. E allora, adesso vi diciamo come possiamo preparare un buonissimo infuso di tiglio. Allora, preparazione. Prendiamo un bel cucchiaio raso di fiori e bratte, ricordatevi le bratte, boatte, per una tazza d'acqua, ok? Portate ad ebollizione l'acqua, immergeteci i fiori, coprite velocemente, aspettate 10 minuti e la filtrate e la vostra tisana è pronta. Ta-da! Ta-da! E soprattutto la potete assumere prima di andare a dormire. E se magari adesso fa troppo troppo caldo, potete pure aspettare che si raffreddi. E questa è una fantastica azione rilassante e sedativa. Ok? È bellissima. Cioè, la sentite proprio. Io do i primi due sorsi e senti proprio che ti rilassi tutto quanto. Cioè, il sangue comincia a scorrere tutto lento. 10 minuti e dormo. Wow. Allora magica. Devo provarla. Sì. La consigliamo. Per i particolarmente stressati e nervosi, noi la consigliamo sempre. E adesso spero che vi è piaciuta, spero che assaporerete presto una buonissima tisana di tiglio e mi raccomando, fate essiccare i fiori sempre nel vostro sacchettino di carta messo al buio per massimo una settimana. Sì. E provatela, ve la consigliamo. Se no la trovate. Se non perché la trovate, non è che ci stanno qua tanti alberi di tiglio, andate in erboristeria e spendete questi 3 euro e provate cose diverse. Sì. E adesso, bellezze, vi lasciamo 2 fantastiche ricettine offerte dalla vostra rubrica preferita, cemento e curcuma. Quindi fortunatamente possiamo iniziare a uscire di casa, possiamo cominciare ad andarcene un po' al mare, quindi dal momento che ieri c'è stata la luna piena ed è iniziata la luna calante e magari alcuni di voi stanno ancora nella fase pelosa, nella fase grizzly e volete darvi una spuntatina come volete, va bene, vi lasciamo una bellissima ricetta della ceretta al caramello che potete fare dove volete, semplicissima, costo zero. Ok, vai. Vado? Vadi. Ingredienti. Allora, un bicchiere di zucchero bianco, un bicchiere d'acqua, strisce di tela leggera, in questo caso potete usare anche un vecchio lenzuolo, se no comprate de delle strisce già fatte, e una spatola di legno con punta squadrata. Ok? Quindi, come lo facciamo? Allora, mettiamo lo zucchero in un pentolino e lo facciamo cuocere, fondere, Fondere, sciogliere, sciogliere. cercando di non formare grumi. Ok. Sarebbe meglio a bagnomaria. Sì, e se tante volte vi si sono formati dei grumi, basta avere un po' di pazienza, state lì a girare, girare, girare a fuoco basso e prima o poi i grumi si sciolgono. Meglio con una stecchetta, se lo girate con una stecchetta, è più pratico invece che usare un cucchiaio. Poi, continuiamo. Proseguiamo la cottura finché lo zucchero non inizia a caramellarsi diventando un po' marrone. Poi spegniamo il fuoco e versiamo l'acqua piano piano, facendo attenzione ai schizzi che partono ovviamente perché è bollente, Sì, esatto. finché non sia tutto perfettamente sciolto e amalgamato. Ok. Poi lo lasceremo raffreddare. E alla fine il caramello deve avere una consistenza densa appiccicosa, uguale a quella di una comune ceretta a freddo. Poi la possiamo conservare in un barattolo chiuso, e questa è una cosa fantastica perché si conserva a temperatura ambiente per diversi mesi, quindi ne potete fare anche un po' di più e lo potete usare per i mesi successivi. Ok? La usiamo come una classica ceretta, stendiamo uno strato sottilissimo di caramello aiutandoci con la nostra spatola e copriamo con la striscia di tela, stendendola perfettamente per farla aderire bene strofinando con la mano, ok? E poi strappate senza pietà, contropelo, colpo deciso e netto, ok? E quindi proseguite così con tutte le altre strisce su tutte le zone a voi più interessate. E la cosa bella è che le strisce le potete riutilizzare perché il caramello si scioglie, quindi non resteranno parti di cera, potete immergerle in una bacinella d'acqua per poi farle asciugare e riutilizzarle la prossima volta. Ok, e questa soprattutto è una ceretta molto efficace e non irritante. E la cosa stupenda è che veramente un chilo di zucchero lo paghiamo quanto? 30 centesimi? Sì, Così. a costo zero e lascia la pelle morbida, idratata, Sì, e eccetera, eccetera. non è allergica, soprattutto per le pelli più sensibili. Ok, provatela, fateci sapere se ha funzionato e se volete potete aggiungerci anche un goccio di limone nella ceretta, se no così. E adesso spero che Facciamo. vi è piaciuta, e sempre con lo zucchero perché approfittiamo, Perché ci sentiamo dolci. ci sentiamo dolci e amate e abbiamo bisogno di amare il nostro corpo. Vi lasceremo la nostra secondina ricetta. Vai Alice. Olè. Olè! Faremo uno scrub allo zucchero e limone. Ok. Per circa 100 ml o grammi di scrub andiamo a usare 4 cucchiai di zucchero bianco, 2 cucchiai di olio di girasole spremuto a freddo oppure olio di oliva se lo abbiamo buono a casa, Ok, non e extravergine però, olio d'oliva. la scorza grattugiata di 2 limoni, solo la parte gialla ovviamente la usiamo. Ok, e come la usiamo? Li mettiamo tutti insieme in un barattolo direttamente e li mescoliamo forte. Ok, tipo shaker. Shake, shake, shake bene, Ci si facciamo conserva. uno scrub cocktail. No. Con lo L'alcol no, shake. con lo Non shaker. esageriamo, No, dai. non esageriamo. Allora, Margherita? No, scusate. Marica, Ok? sempre Scrub? a pensare, no? Scrub, zucchero e limone. E niente, poi ve lo potete spalmare dove cavolo vi pare, dove avete la pelle morta, in faccia, sulle braccia, sulle gambe. E bagnate, inumidite un pochino la parte, prendete un cucchiaino di scrub e massaggiate, eccetera, Ok. eccetera, per qualche minuto. E Poi scrabbate. scrabbate, scattavetrate. Scartavetrate. Si conserva per un sacco di tempo, per 3 o 4 mesi in frigo dove lo volete tenere. Luogo fresco e asciutto. Yes. E lascia la pelle perfettamente morbida, idratata e ha un effetto ovviamente lenitivo. E setosa. Setosa. Siete tutti morbidi. Morbide, così. È anche perfetto per eliminare l'odore dalle mani delle alici Ok. fritte che vi siete mangiati, Buone. de cipolla, di aglio, de pesce e così via, eccetera, eccetera. Quindi diciamo soprattutto per gli odori forti quando cucinate. Sì, siccome il limone non basta, cioè noi ci andiamo sempre a lavare le mani col limone, ma poi. Fondamentalmente non riesce a penetrare fino in fondo, gli diamo un aiutino con lo Con lo zucchero. zucchero, sì. Va proprio a levare lo strato di alici morte che è rimasto sulle mani. Lo schetta, vedi bene e via. Strato di alici e morte. Ok, speriamo che vi è piaciuto e speriamo anche che queste due ricette vi sono piaciute. E adesso abbiamo la nostra perla della settimana, della nostra saggia, visto che oggi è sulla retta via dopo una bella serata al mare. E grazie anche alle sue sorelle che nell'ultima puntata ci hanno lasciato una bella perla, rap. Ci hanno lasciato la saggia riposare Ce l'hanno al lasciata lì, mare. sì. Sono divertenti, le dovremmo chiamare più spesso. Mo ce le rimanderà ste sorelle. Sì, tanto adesso la saggia andrà in vacanza, ci rimanderà le sorelle. E adesso prego, saggia. Il profumo intenso del tiglio sul far della sela è un rapimento estatico che si imprime in noi in modo indelebile e nel cuore della gioia di vivere traccia un solco di felicità che nemmeno tutta la dolcezza di una sera di luglio potrebbe spiegare. Grazie, saggia. Arigato. Oh, arigato, Arigato. arigato. Grande saggio, ogni settimana ci regala la sua perla. E il nostro appuntamento è finito, ci siamo prolungate tantissimo questa settimana e mi raccomando, approfittate con la ceretta dal momento che è entrata la luna calante, quindi Ve potete spellicciare esattamente. senza che ve li riesca. Dopo 2 settimane. Sì. E fateci sapere se vi è piaciuto, com'è stato, se vi siete calmati, vi siete Slevigati. levigate, levigati, ripulite, ripuliti, e tutto quello che volete. Un bacio a Radio Risacca, un bacio a Alice. Marica, Un un bacio a bacio ai pupi. tutte, ai pupi, alle pupe, un bacio grande. Ciao, ciao Radio Ciao. Risacca, a presto!